3, 2, 1. Puntata numero 13 dell'Incredulo, il programma di Radio Big World fatto per quelli che, come me, considerano il Sidereus Nuncius come la nuova Bibbia della scienza e del metodo scientifico, che poi non è vero, sempre il solito discorso, il metodo scientifico l'hanno inventato nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, 4 o 5 scienziati, i cui nomi non sono neanche noti e tutte e 5 erano occultisti. Ma insomma, noi che consideriamo i camici bianchi più importanti addirittura delle uniformi grigio-militari, in questo programma andiamo a smascherare tutte le baggianate, da quelle più banali tipo prendi l'erba e starai meglio, a quelle più strane tipo che c'è i vortici, i meridiani addosso, insomma tutte queste panzane da santoni. Tuttavia, siccome le cose strane ci circondano e quelle che non si comprendono sono moltissime, oltretutto logiche antiche come quelle del sillogismo sono fallaci, per cui, che ne so, quello siccome batte la testa nel muro allora è la causa del mal di testa, magari batte la testa nel muro per un'altra ragione e solo di conseguenza gli viene il mal di testa. Ma insomma, e anche negli argomenti più bizzarri tipo quelli di cui ci siamo occupati recentemente come i chakra, ho da dire questo: ho un'amica che certifica il fatto che tanto lei come suo figlio sono allergici al colore giallo. È una cosa incredibile, e Elisa ci ha spiegato che il colore giallo è direttamente collegato ai chakra. Pertanto, siccome io sono incredulo ma sono anche ignorante, mentre Elisa è una persona che ha studiato, che studia, che sperimenta ogni giorno su se stessa e sulle persone che la contattano, quello che lei ci spiega, tanto vale lasciare la parola a lei. Elisa! Buongiorno! Buongiorno Giorgio e buongiorno ascoltatori di Radio Big World e benvenuti a questa nuova puntata dell'Incredulo. Oggi con un argomento stranamente un po' più serio del solito. Sai di che cosa parleremo oggi? Di che cosa? Serio è una parola grossa ormai in questa trasmissione. Di notizie che hanno invaso gli giornali nell'ultimo periodo, soprattutto negli Stati Uniti, e cioè della dipendenza da farmaci oppiacei. Non da stupefacenti. D'accordo, i farmaci quindi in farmacia, no? Quelli che vende lo spacciatore di nascosto sotto il ponte di Brooklyn. Esatto. A che cosa servono i farmaci oppiacei? Di solito sono legati al trattamento del dolore cronico, quindi dal mal di testa a tutte le cure che si fanno per i malati, diciamo, un po' più gravi, per alleviare il dolore. Negli Stati Uniti esiste una dipendenza molto molto grave, molto, diciamo, conclamata da questi farmaci. E pensa che l'FDA, quindi la Food and Drug Administration, ha calcolato che negli Stati Uniti ci sono stati più di 16.000 decessi causati da overdose dovuto dall'assunzione di questi medicinali. E questi sempre roba che gli ha prescritto il dottore. Esatto. In Italia, per fortuna, noi siamo come sempre fra gli ultimi paesi, però diciamo che in questo caso è una cosa positiva, nel senso che la quantità e l'assunzione pro capite di questo medicinale è solo di 2 mg rispetto agli 800 mg che vengono assunti negli Stati Uniti. Quindi noi siamo veramente molto molto meno dipendenti da questi farmaci. Però c'è da capire un pochino di più che cosa sono, secondo me, perché di farmaci oppiacei ce ne sono, o oppioidi come vengono chiamati anche in Italia, ce ne sono di vario tipo e tanti li conosciamo più o meno, perché si passa dalla codeina e al tramadolo, alla morfina, al fentanyl, all'ossicodone, l'idromorfone, la buprenorfina e il metadone, che tutti noi conosciamo come medicinale dato ai dipendenti di eroina. Ma Elisa, si parla di oppiacei o di oppioidi e quindi si parla di oppio. Queste medicine alla fine vengono ricavate dal papavero, dallo stesso papavero da cui si ricava l'eroina. E siccome l'eroina, lo sappiamo, è una tragedia nazionale, internazionale da diversi decenni, è una sostanza che dà anche forte dipendenza fisica. Questa tipo di dipendenza la danno anche i farmaci oppiacei? Sì, dovrei dire di no, perché il metadone di solito viene dato ai tossicodipendenti per evitare la dipendenza da, però in realtà sì, nel senso che comunque sia un minimo di dipendenza lo danno. Chi prende questi medicinali, diciamo, ricavati dall'oppio, che sono anche medicinali molto molto forti, può sulla lunga essere dipendente, e non solo. Una dose, diciamo, minima che prendevano all'inizio può non bastargli più, perché poi il corpo si assefa, inizia a agire con queste molecole, e quindi se prima per un mal di testa prendevi mezza pasticchina, ci sta che poi per il mal di testa tu ne debba prendere una, perché la mezza pasticchina non ti fa più, e quindi sì, ti dà dipendenza. E da qui viene anche l'overdose, ossia aumentare le dosi fino a che il corpo non ce la fa più fisicamente a reggere la quantità di sostanza ingerita o iniettata in altri casi. Esatto, e qui infatti tutti i decessi che ci sono stati negli ultimi anni negli Stati Uniti per overdose di medicinali contro il dolore, quindi sì. Questi medicinali fatti con l'oppio servono, ok, come antidolorifici, ma per esempio vengono utilizzati per chi ha problemi a dormire, chi ha problemi di ansietà, eccetera. Per esempio in Iran si usava, non so se usa ancora oggi, quando c'è da fare dei lunghi viaggi, mettere dell'oppio nel tè, darlo ai bambini, che così dormono 8 ore tutto il viaggio. Allora, alcuni vengono utilizzati come anestetici, quindi un, diciamo, un pochino più di rincretinimento lo danno, però non sarebbero medicinali per curare l'ansia, l'insonnia e altri tipi di queste malattie. Sono, diciamo, più a livello di analgesici, quindi curano il dolore, sono medicinali che appunto riducano il dolore cronico e il dolore acuto. D'accordo, quindi in buona sostanza sono degli anestetici. In grossa quantità o in determinata quantità magari causano la sonnolenza o la perdita di coscienza, però in buona sostanza agiscono per alleviare i dolori. Esatto. Quindi il medico prescrive questi farmaci, ora escluso il metadone, è chiaro, ma prescrive questi farmaci da farmacia di paese, in caso in cui ci siano situazioni di dolori, tanto muscolari come degli organi, come del corpo? Una cosa del metadone te la devo dire che l'ho scoperta pochissimi giorni fa, è che il metadone adesso viene usato come anestesia anche in veterinaria, perché dice che dà molti meno complicazioni rispetto a quanto può dare l'anestesia vecchio stile, e quindi ti dico che il metadone non viene solo usato più in, diciamo, per aiutare i tossicodipendenti, ma viene usato proprio anche per rincretinire, diciamo, ma non del tutto, pazienti sia umani che veterinari. Per quanto riguarda gli altri medicinali, si parla di medicinali forti, quindi io ti posso raccontare che quando sono andata all'ospedale perché mi sono fratturata un braccio con un incidente motorino, e ti parlo di tanti anni fa, quando ancora le medicine le prendevo liberamente, mi chiesero se volevo 2 trachipirine o la morfina. per il dolore, e io subito gli dissi la morfina, perché chiaramente avevo la frattura di un braccio scomposta, sentivo veramente tanto male, e nonostante mi avessero dato l'opzione fra morfina e tachipirina, mi hanno dato due tachipirine, e con queste due mi hanno rispostato le ossa. E ti dico, non è stato un bel piacere. Avrei tanto voluto la morfina, però poi l'infermiera mi ha detto: guarda, la morfina non te l'abbiamo voluta dare, perché una volta che ti passa l'effetto è peggio, nel senso che potresti iniziare a averne bisogno. Quindi sono medicinali che vengono dati nelle situazioni in cui le altre medicine non funzionano più. Quindi se hai un'emicrania e tutte le medicine per l'emicrania, dalle più leggere a quelle un pochino più pesanti, non ti fanno più, allora passano agli oppiacei o agli oppioidi. Sono medicine che vengono anche usate per la terapia del dolore per i malati terminali. Quindi l'idea è quella proprio di far sì che il dolore sparisca del tutto, e sui malati terminali, diciamo, si guarda un pochino meno al fatto che possano dare dipendenza, perché tanto la situazione è abbastanza critica. Io dubito e mi auguro che il medico di paese non prescriva queste medicine belle potenti così, diciamo, a cuor leggera rispetto a come viene fatto negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti sicuramente, vista la quantità di dipendenza e la quantità di decessi, vengono prescritte in maniera molto più diciamo libera, più all'americana, alla cowboy, alla John Wayne. Esatto. Quindi Elisa, secondo te, almeno così sembra, in Europa o in Italia i medici, la classe medica è comunque più attenta a fare certe prescrizioni rispetto che negli Stati Uniti? D'altra parte, il marketing e il lobbismo che fa il Big Pharma, le grandi case farmaceutiche negli Stati Uniti, lo fanno anche in Europa, ma non è comparabile per dimensione anche l'aspetto marketing. E poi non dimentichiamoci che gli Stati Uniti, a parte che sono un paese molto particolare, però sono un paese che è anche 10 volte più grande dell'Italia per popolazione come minimo, e poi per superficie non ne parliamo. E a questo punto, Elisa, ti domando: c'è un'alternativa a questi medicinali? Ora capisco il malato terminale, oddio, qualcuno dice che il THC probabilmente farebbe meglio comunque dell'oppio, ma per altri tipi di problemi sempre relativi a questo punto ai dolori, ci sono alternative all'oppio e alle medicine? Sì, tutto, diciamo, nasce prima di tutto da capire la fonte del dolore, non il sintomo, quindi da che cosa è causato, perché noi possiamo avere dei mal di testa invalidanti, e ce ne sono tante persone che soffrono di mal di testa invalidanti e che si imbottiscono di pasticconi. Magari questi mal di testa possono essere dovuti da allergie / intolleranze alimentari, perché dobbiamo sempre ricordare che il nostro corpo è tutto connesso, quindi se c'è qualcosa che transita nell'intestino che noi non tolleriamo, automaticamente da qualche altra parte sfocia. Quindi ci sarebbe prima di tutto da alimentarsi correttamente, cercare di capire se questi dolori sono dovuti a traumi fisici o a traumi emotivi, psicologici, o a qualcosa che purtroppo ci portiamo dietro da quando eravamo piccolini. Quindi c'è da fare sicuramente un lavoro su noi stessi e iniziare a non fermarsi solo a voler stoppare il sintomo, perché se si stoppa il sintomo, una volta che la medicina ha finito, la situazione è esattamente quella di prima, se non peggio, perché il nostro corpo continua a dirci che è lì che dobbiamo lavorare, è lì che dobbiamo porre un rimedio, ma un rimedio risolutivo. Io capisco che non è facile, non è un percorso facile, non sempre tutti noi ci vogliamo mettere, diciamo, in gioco e capire cosa ci sta dietro un banale mal di schiena, che può essere veramente dovuto a un blocco nostro o un sentirsi imprigionati in una situazione che non ci vogliamo stare, spesso alla quale forse non c'è nemmeno rimedio, però se facciamo questo passo, quindi se cambiamo un pochino il nostro modo di pensare e il nostro modo di vedere le cose, e quindi ci rendiamo conto, cosa che spesso i medici di famiglia purtroppo non riescono a fare, cioè ci sezionano per parti di corpo, quindi hai male alla testa, ti do quello per la testa, ma non analizzano mai l'essere nel suo complesso. Se iniziamo ad analizzarci nel nostro complesso, sicuramente tante soluzioni a mali che oggi vengono curati con le medicine si riescono a trovare. Quindi, di nuovo, questo tipo di sostanze, come altre utilizzate nella farmacologia, nella farmacopea e nella medicina odierna, comunque vanno a risolvere il sintomo e non la causa. Pertanto sono una soluzione di comodo, ma temporanea e poi alla lunga molto dannosa. Esatto, è esattamente come hai detto. Naturalmente in determinate situazioni, che ne so, nella tua situazione che eri all'ospedale, al pronto soccorso con una frattura e sentivi particolarmente dolore, lì solo la morfina ti avrebbe aiutato. No, alla fine sono sopravvissuta anche con due tachipirine, dai. Però l'avrei tanto voluta la morfina, anche perché ci ho passato tipo dalle 11 del mattino fino alle 9 la sera, perché non era un caso urgente, quindi se mi rincoglionivano un pochino magari me la passavo anche un po' meglio. Se vivi nella grande città, il pronto soccorso delle grandi città, perlomeno da noi in Toscana, è intasatissimo e capita di farci anche giornata. Elisa, grazie delle informazioni che ci hai dato. Effettivamente c'erano un sacco di notizie e di nozioni che non sapevo, e come non lo sapevo io, probabilmente non le sapeva neanche qualcun altro. Grazie di questa spiegazione, insomma, che ci hai rassicurato dicendo: tranquilli, non siamo gli americani. Grazie a te Giorgio e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Geek World, spero e mi auguro di risentirvi la prossima settimana. Insomma, aveva ragione il mio amico quando diceva: il dottore ce l'ha meglio di quelli in piazza, ma lui sottolinea ogni volta: gli piace però. Grazie.